sempre, ricordati sempre che il nostro amore non finirà mai. Sempre, ricordati sempre che poi un giorno da me tornerai. Potrai andare a cercare altri amori, ma poi nessuno sarà mai come me. Di ogni gesto che tu farai, tu poi domani ti pentirai, quando sarai ancora una volta con me. Quindi sempre, ricordati sempre, il nostro amore non finirà mai. Sempre, ricordati sempre che poi un giorno da me tornerai. Finirà mai, sempre, ricordati sempre che poi un giorno da me tornerà.